giorno mi giura ch'io sono il suo cuore e che a ogni altro ardore cede il mio fuoco. E poi di lì a poco, parlando con me, mi dice che a te quel dì del tuo cuor non hai suo amante. Parlando con me, mi dice che a te quel dì del tuo colei che servo ogni ora, or mi sprezza ora m'adora, a un pensiero sempre volante. Or mi sprezza ora m'adora, a un pensiero sempre volante. Oh che umore stravagante, oh che umore stravagante, oh che umore. Bizzarra, e se per fortuna in capo alla luna mi sfida battaglia, mi sfida battaglia, ma il fuoco di paglia che ben io non so che durar, non può, perché vuole, non può, perché vuole.